che è aperta sempre, perché dopo i giorni di fiera bisogna telefonare, fare, chiedere appuntamento, eccetera. Se non ce l'avete fatta in questi giorni, comunque fatelo, perché di tutto quello che succede a Bologna questa è decisamente una mostra da non perdere. E ha inaugurato lunedì invece una mostra a cura di Maura Pozzati, di cui parleremo fra pochissimo. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Dicevamo, ma lunedì scorso ha inaugurato Collection de Nuages di Leandro Ehrlich, una mostra a cura di Maura Pozzati all'Oratorio di San Filippo Neri, e è indubbiamente una mostra molto d'impatto, anche quella da non mancare. E dice il comunicato: chi non ha mai giocato con le nuvole alla ricerca di forme e immagini nel cielo? Quasi a voler catturare l'intangibile, la Collection de Nuages di Leandro Ehrlich, non so come si pronuncia, scusate, propone tre nuvole in imponenti vetrine come proveniente da un gabinetto di curiosità. Ed effettivamente nella cornice meravigliosa dell'oratorio di San Filippo Neri, che fra l'altro ha una ristrutturazione veramente notevole, entri e ci sono queste tre teche di buone dimensioni con dentro delle nuvole ferme, ed effettivamente l'effetto è non solo straniante ma anche veramente notevole. Hanno una luminosità particolare e poi quando vai a vederle da vicino scopri come sono state fatte, che sono queste serigrafie su vetro con una vernice, mi dicono, ceramicata, che fa sì che il risultato finale da lontano sembrano veramente delle nuvole rimaste, delle piccole nuvolette rimaste ferme nel tempo e all'interno di una teca. Veramente notevole, anche questa una mostra da non mancare. Dopodiché ha inaugurato ieri l'altro invece Mika Rottenberg al Mambo, devo ancora andarla a vedere, ma mi dicono tutti che è una mostra spettacolare, sicuramente un'altra delle mostre da non perdere, oltre appunto a quella di cui abbiamo parlato la settimana scorsa di Goran Trbuljak a Villa delle Rose, anche quella assolutamente da non mancare. Cioè se ci sono tre o quattro mostre da non mancare sono sicuramente Leandro Ehrlich, Goran Trbuljak, Mika Rottenberg e Jacopo Benassi, di cui ho parlato prima di questo gran pezzo. Fra l'altro nella mostra di Jacopo Benassi c'è anche un ritratto del mitico DJ Balli, che invitiamo ufficialmente a venirci a trovare a Coxo Spaziale e farci sentire un po' di nuova musica, perché noi siamo messi così e abbiamo questa musica qua da farvi sentire. Tutto ciò non mi sono dimenticato di Fedra. Fedra dov'è? Fedra, dove sei? Sono a Stoccarda, parto oggi e tra un poco per ritornare in Italia, ma mi fermo a nord. E da Stoccarda a Villa delle Rose il passo è breve, ma sentiamo appunto Lorenzo Balbi, che insieme ad Andrea Bellini ha curato la mostra di Goran Tribuliak. Nelle sue parole ci descrive qualcosa di questa fantastica mostra che dovete assolutamente vedere. L'artista è per sempre in crisi, quindi dal 71 all'81 è un po' una carta d'identità, ma diventa un discorso generale per descrivere la situazione dell'artista concettuale che di fronte al ritorno alla pittura figurativa degli anni 80 è in crisi completa. E questo in realtà non segue più un percorso cronologico, perché su quest'uso della parola e anche delle associazioni impossibili, un po' come è impossibile la raffigurazione sui dipinti, partendo da questa frase, quindi che vedete sulla destra, che questo artista di nuovo, che essendo in crisi ha bisogno di cercare un museo carino, mi piace tantissimo quel nice new art museum space, dove l'artista mira ad esporre le proprie opere, che questa frase viene completamente smontata, perdendo di senso, lasciando comunque invariata, no? Questo senso di domanda su che cosa si possa realmente fare per meritare di essere dentro un museo di arte contemporanea. E quella che uno penso una delle opere più interessanti di tutta la mostra, anche perché immediatamente mette l'accento sul suo pensiero, era metropolitana di Parigi, e lui incolla sulla parte fissa delle scale mobili la scritta artista, e sulla parte di caucciù duro, nero, mobile il nome Trébouillard, e quindi allora quando le due cose combaciano diventa un artista, ma solo per un secondo, ed è perfettamente l'essere artista di oggi, cioè dura un secondo e passa via, per poi ritornare o non ritornare, dipende da se la gente tocca, mette la mano, se ne accorge o non se ne accorge. From what man? Not really many limits to what I can do, but there are limits to my motivation. Get what you get! If I show up, that's more than half of it! Play like I'm a sucker! All this talk and no action means somebody wasting my time. Some inferior aim! I get no desirable credit or accolade. Doing something I hate. Anyway, cancel, negative. Always show love, no hating. No, no. My control. Cancel. Praying, but I don't need no second chance. I left myself no choice. Essere Fabio Di Camillo e anch'io ascolto Coxo Spaziale. Arte contemporanea. Invece adesso mi sto godendo la mostra di Mika Rottenberg. Quello che sentite è il sonoro di uno dei suoi video. Questo è il rumore, anzi il suono, della mostra di Mika Rottenberg che ha inaugurato martedì scorso. L'artista di origine argentina, cresciuta in Israele e oggi di base a New York, tra le principali protagoniste della scena contemporanea mondiale, si appropria degli imponenti volumi della Sala del Ciminiere, situata al piano terra del museo, per animare 10 delle sue più recenti produzioni, oggetti scultori e installazioni video, celebri per il loro registro narrativo sarcastico e bizzarro. Rottenberg utilizza i diversi linguaggi del film, dell'installazione architettonica e della scultura per esplorare le idee di classe, lavoro, genere e valore attraverso immaginifici dispositivi visivi che illuminano le connessioni e i processi nascosti dietro economie globali apparentemente non correlate tra loro, intrecciando elementi di finzione con dati documentali in racconti dove geografie narrative collassano in nonsense surreali. L'artista crea complesse allegorie sul sistema capitalistico che regola le condizioni umane e i processi di produzione massiva delle merci. Effettivamente, per quel poco che sono riuscito a vedere con il poco tempo a disposizione che avevo oggi, la chiave di lettura di questa personale è sicuramente una sorta di surrealismo magico, un surrealismo contemporaneo, diciamo. Ci sono queste installazioni video in cui non si capisce bene che cosa succede, ma si capisce comunque la fatica del lavoro manuale. Avevo di fronte a me questa lavoratrice di colore un po' che guidandosi sudava, eccetera, e nello stesso tempo c'era una dietro di lei che riciclava e rigirava questi fazzolettini. Appunto per asciugare il sudore della guidatrice. Dopodiché ogni tanto appunto succedono robe strane, è una mostra che secondo me bisogna venire al Mambo e guardarla con attenzione, con attenzione e con tempo, lasciando appunto che il tempo ci avviluppi in questi momenti di surrealismo magico, che comunque hanno un che di leggermente tragico, leggermente triste di base, ovvero la condizione umana del povero, che è effettivamente anche qui, anche in questo paese abbastanza privilegiato, rimane un tema caldissimo. Cosa è successo ieri o ieri l'altro, che un ragazzo di colore, un ragazzo laureato di 25 anni, sapendo di non poter avere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per via del nuovo decreto di questo innominabile ministro che mi fa così schifo che non lo voglio nemmeno nominare, si è suicidato. Per cui appunto il tema di una mostra del genere, anche se magari vista così superficialmente può sembrare così una critica un po' apatica, ma in realtà guardandola bene questa mostra pungola proprio i problemi del nostro tempo e che sono la liberalizzazione capitalistica del mercato, per quel che mi riguarda. Cioè sono uno dei problemi maggiori di questo mondo, non tanto il fatto che i paesi del primo mondo consumano troppo, eccetera, oppure che... No, quelli non sono grossi problemi. Il grosso problema è il capitalismo, che ha più potere degli stati stessi, per cui può condizionare la vita di tutti noi, che rimaniamo un po' così in questo limbo in cui non si sa bene dove stiamo andando e il tempo scorre velocissimo, i messaggi si accavallano e così. Mica Rottenberg al Mambo, venitela a vedere prima di domenica se non volete pagare il biglietto, o se non potete permettervi di pagare il biglietto potete venire a vedere un'ottima mostra di arte contemporanea che vi farà sicuramente pensare. Whatever you want. deserve. Siamo sì. Qui a Villa delle Rose. Perfetto. Con Chiara Pergola, naturalmente. Naturalmente, sono sempre i miei 5 minuti, questa è per Oscar Moroni. E siamo ancora sul tema della pars construens della puntata precedente, o di due puntate fa, giusto? Di due puntate fa. E a questo proposito volevo presentarvi la nostra ospite a sorpresa, che stasera è Uliana Zanetti. Ciao Uliana. Buonasera. Abbiamo chiamato Uliana Zanetti per questo intervento spot perché Uliana ha curato nel 2013 una mostra molto bella, di cui tra l'altro facevo parte anch'io, ma questo tra parentesi. Questo non c'entra col fatto che la mostra fosse c'entra. Molto bella. Questo non c'entra, no, cioè no, in realtà c'entra, ovviamente, no, però ne avrei parlato lo stesso, e, proprio sull'arte, sulla presenza delle numerose donne all'interno del panorama artistico italiano. Ci racconti qualcosa di questa... di questa di avventura lavoro. Sì. Dunque, l'idea è stata mia, ma come Chiara sa benissimo è stato un lavoro collettivo imponente, perché eravamo tantissime, 42 artiste, una decina di critiche intellettuali che frequentano altri campi, insomma alla fine eravamo più di 80, compreso lo staff del Mambo per intero, che è uno staff solo di donne, quindi sembrava davvero doveroso per noi occuparci di una parte mancante del museo, che era l'arte delle donne prima degli anni 60. Ci eravamo accorte che fino agli anni 60 praticamente non c'era quasi nessuna presenza femminile documentata nel museo, e poi improvvisamente compariva una generazione invece dove... Chi è stata la prima donna nel Mambo? Sai che non lo so, forse abbiamo qualcosa di... abbiamo qualcosa di Mimì Quirici Buzzacchi, anti 45, abbiamo la Gottstein, abbiamo qualcosina, però devo dire che poco, molto poco, e si comincia ad acquisire qualcosa solo con le grafiche acquisite da Pozzati negli anni 80, insomma. Quindi wow. I primi acquisti o donazioni incoraggiate sono relativamente recenti. Poi di fatto negli anni 90 si è visto che metà degli artisti erano donne. Maschi, l'altra metà erano femmine, per fortuna, donne, erano artiste. E così ci siamo un po' interrogate su come era avvenuto questo cambiamento, quali fossero le ragioni reali, e c'è stato un grande interrogativo posto collettivamente, e naturalmente dietro a tutto questo lavoro c'erano ovviamente le riflessioni di Carla Lonzi, della Cardi, insomma di tutte le nostre sono passati pensatrici. Le nostre grandi pensatrici da quella mostra? Quasi, sì. Quasi sei, sì, anni. Se quasi non sei. Ricordo male, era sì, quasi 2013. E come la vedi la situazione adesso? È migliorata, peggiorata? Devo dire che... No, non all'interno del Mambo, in generale. Dico. Devo dire che mi sembra che sia molto peggiorata in generale, non solo perché le artiste ricominciano purtroppo a diminuire di numero nelle mostre, ma anche perché credo che proprio il clima sociale sia di machismo sempre più aggressivo, sempre più debordante, a partire ovviamente dai nostri politici, ma la sparizione delle donne dalla politica è un fatto credo evidente a tutti, e chiaramente questo tocca ogni ambito della nostra società, e credo che anche lo studio che è stato divulgato poco tempo fa dalla NABA, insomma, stia lì a dimostrare questa cosa, e purtroppo mi sembra una regressione che non riguarda solo l'Italia. I'm just waiting on your words. Tell me fit to be torn. You go, I stay. Nothing gets done. Nothing gets done. Gets done. Nothing gets done. coxo spaziale. Arte Fiera, come dicevamo, è partita ieri in gran spolvero con una nuova edizione curata da Simone Menegoi con l'ausilio di Gloria, non mi ricordo il suo cognome, adesso vado a leggerlo immediatamente dalla cartella stampa, non lo trovo più. E devo dire che è una nuova Arte Fiera un po' più pulita, un po' più interessante, un po' più bella. Ci sono un po' di gallerie che sono tornate, c'è questa fantastica non VIP lounge di Flavio Favelli proprio all'inizio, che farà l'altro per i bolognesi doc. Devo dire che è un piccolo segnale che spezza un po' il cuore, nel senso che Flavia ha utilizzato la vecchia insegna di Nannucci per scrivere Nunc, visto che il pezzo, cioè questa non VIP lounge che lui ha fatto proprio all'ingresso della fiera, si intitola Hic Nunc, qui ed ora in latino, non per me che non ho fatto latino, ma dopo la serie di sala d'attesa, Hic Nunc è un tentativo di creare un luogo più che uno spazio, con una vita di pochi giorni in un ambiente come quello di una fiera. Arte Fiera, un luogo non chiaro, una specie di sala di museo dove sono esposte due grandi opere. Queste creano dei separé con sedute che permettono di sostare e mirare le sculture. All'esterno di questa grande sala, sui muri esterni, ai due angoli ci sono due insegne luminose. Nunc è un vecchio orologio trovato di una gioielleria, ma che ricorda di più uno di una stazione ferroviaria. La prima è ricavata dall'insegna al neon originale di Nannucci, il negozio di dischi di fama nazionale. Dicevo, scrive Flavio Favelli, del tentativo di creare un luogo in un posto standard, di traffico ed effimero, come può essere una fiera, dove ci sono pochi punti di riferimento, dove i padiglioni sono dei piazzali coperti e vuoti che possono accogliere ogni cosa. Il neo ambiente Hic et Nunc cerca di fermare il tempo e lo spazio in un luogo di transito, dai giorni limitati e veloci, scandito da rituali di maniera. Effettivamente funziona molto bene. Poi sarebbe stato ancora meglio se fosse stato all'interno della fiera stessa, nel senso che noi lo vediamo quando entriamo in fiera e tendenzialmente non si vede più dagli altri due padiglioni. Però effettivamente, come spazio per riposarsi un attimo e anche magari per ripigliarsi o fare due chiacchiere importanti con qualcuno, direi che che funziona molto bene. E dicevamo appunto questo pezzo di scritta di Nannucci, devo dire che quando l'ho visto mi ha abbastanza ricordato il negozio di via Oberdan, che in cui tutti andavamo a comprare, almeno la mia generazione sicuramente, i vinili a 1000 lire, perché ogni tanto c'erano dei gran bei vinili che si trovavano a 1000 a 2000 lire in offerta. Nannucci, grande. Stamattina han bussato alla porta e nessuno ha risposto. Era il sole che stava nascendo dietro l'ultima fila di case. Era una serie di immagini libresche collezionate a casaccio. Era la casa di Hilde trasportata su ruote. Era il vecchio Rasputin tradito con la sua ernia e la sua tromba. Erano le pantofole della mia anzianità che chiedevano scusa. Han bussato alla porta e nessuno ha risposto. De Gregori era morto, ucciso dalla sua cultura borghese da un forte mal di testa. Dicevo, non ho incrociato Simone Menegoi all'inaugurazione e dunque ce lo ascoltiamo in un suo post, anzi un post di Arte Fiera preso da Instagram. Siamo al centro servizi di Arte Fiera, dietro di me c'è la grande installazione di Flavio Favelli che accoglierà il pubblico all'inaugurazione di Arte Fiera 2019. Quattro parole per Arte Fiera 2019, allora direi selezione, territorio, collaborazione e accoglienza. Scelgo selezione, che per me vuol dire aver chiesto alle gallerie di ridurre il numero di artisti che è possibile portare in ogni stand per favorire una leggibilità maggiore degli stand e la specializzazione e l'approfondimento. Come seconda parola scelgo territorio, perché vuole essere anche la fiera di Bologna e del suo territorio, in tanti modi e con tante ragioni diverse. Innanzitutto variamo una grande mostra, prima nel suo genere per arte fiera, delle collezioni istituzionali pubbliche e private di Bologna e dell'Emilia Romagna. Come terza parola direi collaborazione. Questa fiera è una fiera che vuole moltiplicare le sue collaborazioni con professionisti, con i possibili interlocutori dell'arte moderna e contemporanea. La prima che mi viene in mente, anche questa una novità di quest'anno, è quella con Flash Art. La fiera più longeva d'Italia, Arte Fiera, sposa la rivista più longeva d'Italia nel campo dell'arte contemporanea. E infine, un'ultima parola è accoglienza. Abbiamo lavorato nel tempo che ci è stato concesso quest'anno, soltanto 4 mesi e mezzo, ma li abbiamo saputi sfruttare per fornire per esempio una ristorazione più seducente, a partire da qui, dall'area servizi, dove ci sarà un bar curato da FICO, Italy World, per finire con la VIP Lounge, dove una ristorazione bolognese in chiave rivisitata è affidata al ristorante Il Boccone del Prete. Vaga scaletta. Che, ma hanno detto che questo è lo stand più bello di Arte Fiera. Che cosa succede qui dentro? Che cosa c'entri tu? Siamo in palio per il premio. Ah, fantastico. Che però non so che premio. Ah, ok. Ma l'importante è vincerlo. Sì, esatto, anche dal punto di vista morale. Dunque, io vedo al viso evidente che sta disegnando dal vero. Poi c'è uno nudo in mutande con con tre cellulari non si sa che cosa stia facendo. Un totem. E che cosa? Allora, artworks that ideas can buy, ovvero opere d'arte che le idee possono comprare. Come ti è venuto in mente? Come mi è venuto in mente? Come mi è venuto? Non so, stavo per addormentarmi, poi ho detto vedo uno nudo col cappuccio e tre cellulari attaccati da un pezzo di legno. E lo vendo a Pietro Iusti. In cambio di un'idea. In cambio di un'idea. Ah, di un'idea. Come funziona allora? Funziona che io penso che le idee valgano più del denaro. Credevo che avresti detto io penso dunque sono. Ah, ok. No, io penso dunque divengo. Siamo per il divenire. No, perché tu sei laureato in filosofia. Lasciamo perdere tutto questo esistenzialismo. Siamo tutta una banda di delesiani. No, anche perché se non sbaglio lui è laureato in filosofia, giusto? No, sbagliatissimo. No, in medicina. Medicina. Ah, dottor Pietro Iusti. Allora, mi dica. E dunque, come funziona? Facciamo finta che io voglio quel guanto lì, come se fossi un collezionista, no? Ti fai venire un'idea. Un'idea che ha a che fare col guanto o no? Beh, se ha a che fare con quanto, diciamo, forse è meglio, però può essere qualunque idea che tu indirizzi ad Anna Prvatsky, che è l'autrice dell'opera. Ah, ok. È un guanto con degli attributi, diciamo, delle piccole protesi che hanno una funzione di stimolare una titillazione erotica. Ah, fantastico. Quindi tu puoi anche rifartelo il guanto, poi in realtà come vuoi. Sì. Ma questo però succede poi anche con, che ne so, con le opere di tutta la fiera. Esatto, no? Cioè, questa cosa no, che l'ho sentita già dire, lo posso fare pure io. Esatto, sì. Esatto. Infatti io così ne parlavamo sentato anche con Daniela Comani. Cioè, voglio dire, io vedo un ferro da stiro con i chiodi di Merle e dico, vabbè, compro un ferro da stiro, ci attacco dei chiodi ed è uguale, no? E certo. Infatti io l'ho fatto e ci faccio tutte le camicie sgualcite da allora. E in tutto questo cosa... Cioè, in tutto questo tu praticamente indirizzi quell'idea che ti è venuta ad Anna Prvatsky, la metti dentro una busta, la busta chiusa, come si fa nelle aste serie, no? Ah, ok. L'offerta in busta chiusa. Alla fine della fiera, alla fine della fiera, le buste vengono distribuite fra gli artisti che a cui hanno... sono indirizzate. Tu, per esempio, la tua busta finirà ad Anna Prvatsky. Perfetto. E nel caso in cui l'artista decida che almeno uno di questi... dei pensieri, di questi interventi scritti, abbia un valore ideale, concettuale, pari al valore della sua opera, ti cede l'opera. In cambio dell'idea. In cambio dell'idea. Ok, ma questi artisti da dove vengono? Chi sono e perché? Gli sei tu, diciamo, il curatore di tutto questo? Li ho un po' scelti io, prevalentemente anche insieme a Silvia Fanti, che è la curatrice. Ah, Silvia Fanti è la curatrice, Ed Emilio Fantin, che invece cosa c'entra? Emilio Fantin è uno degli artisti. È uno degli artisti, lui ti dà un'ora. Un'ora con Fantin. Ah, cavoli. Un'ora, cioè, per cui Fantin è qua sempre praticamente, per tutta la fiera. No. Perché l'ora te la dà dopo. Ah, un'ora, vinci un'ora con Fantin. Lui ti telefona, si mette d'accordo con te. Già da Pellicari, tu se avessi un'ora con Fantin, cosa faresti? Io andrei a farmi una bella cena. Ah, ok. Pensavo che ti avrei visto, no, così, bere fino a... Bere sicuramente. No? Io suggerirei una meditazione davanti a una pianta di olivo. Ah, bellissimo. Va bene. Perché fa delle meditazioni davanti alle olive, fantastico. Ti comincia a dire, tu sei un nocciolo di oliva. Ok. O dopo un po'... ti senti un nocciolo di oliva. E ragioni come un nocciolo di oliva. È riuscito a convincere molte persone in Italia di questa cosa. Esatto. È bravo. Esatto, sì. Ho capito. Infatti adesso... Bene. È stato assunto. Ma invece mi hanno detto che hai vinto anche tu, Cesare Pietroiuti, hai vinto un premio importante e fra un po' ci sarà qualcosa di importante che ha a che fare con te e Bologna. Notoriamente un raccomandato. Ok, e quando sarà? Quindi, quando a Bologna verrò da settembre. Ok. Mi piazzo qua. Ti piazzi qua e non ti si schioda più. Museo, non si... tutto il mambo ti avrai. Beh, proprio tutto tutto no, tutto però, no, però una buona parte. Fantastico. Mica da solo, lo occupo con un gruppo di attivisti. Attivisti. Ok. Ma invece l'opera di questo qua mezzo nudo con i cellulari, allora, che, come funziona? Allora, questo è un lavoro di Presicce. Ah, ecco. Ah, anche quello. Cioè, esatto, sono insieme. Tutti quelli nudi sono di Presicce. Ok. Perché l'immobilità è il punto, attenzione, sto per dire una cosa importante, in cui si congiungono la pittura e la performance. Ecco, questo è il mio cane, Nacho, che non so perché si lamenta, perché come appunto vi dicevo prima, questo coxo spaziale non è in diretta, è registrato. Ma perché è registrato? Perché io con tutto il mio team di Obsolete Shitters sono a Fruit. Fruit è la fiera di piccola editoria indipendente d'arte, tendenzialmente, che tutti gli anni accompagna Arte Fiera. Di solito Fruit è a Palazzo Renzo, ma quest'anno invece si è spostata ed è a Corte Isolani, a Palazzo Isolani, in Piazza Santo Stefano. Per cui naturalmente l'inaugurazione è cominciata da poco, da un'ora, e siamo qui, almeno mi troverete fino a mezzanotte, e anche domani, dopodomani e basta, perché c'è anche sabato e domenica, dalle 11 a mezzanotte domani e dalle 11 alle 9 di sera domenica. Per cui mentre andate in giro a vedere tutte le mostre che ci sono, che sono troppe per essere elencate qui, ma vi troverete su www.coxospaziale, anzi lo trovate già in quello della settimana scorsa. Se andate su www.coxospaziale.blogspot.com trovate il link al volantino di Art City, che ha veramente praticamente tutto quello che succede. Naturalmente ieri ha inaugurato anche Setup. Ahimè, senza Fedra io non posso essere dovunque e non ci sono andato. Per ora non ho avuto nemmeno alcun riscontro, magari ne possiamo parlare la settimana prossima. E nel frattempo, naturalmente, se siete in giro starete sicuramente cercando parcheggio per andare a vedere una qualche mostra. Come vedete, a Bologna continua a non trovarsi alcun parcheggio. From outer space. E dunque, Art City Ball, cosa c'è da vedere a Bologna in questi giorni, oggi, domani e dopodomani? Veramente un sacco di roba. Stasera sta inaugurando in questo momento la mostra di Giulio Alvigini al Porto dell'Arte. Sicuramente è una mostra da non perdere. Sono veramente tantissime le mostre da vedere. Il mio amico Tiberio Cattellani mi ha appena spedito un'altra inaugurazione che sta succedendo in questo momento. Si chiama Alchemilla, David Casini, Cuoghi Corsello, Dado, Claudia Losi e Chi Yong Chung. Yong, anzi, salutiamo il nostro amico Yong, a cura di Fulvio Chimento, e questo è a Palazzo Vizzani Sanguinetti a Bologna, che se non sbaglio dovrebbe essere sempre in via Santo Stefano. Poi, cosa succede? Beh, naturalmente tutte le gallerie, Galleria Più a Deborah Delmard, che inaugura domani, anche se anche oggi, stasera, se siete in giro, quasi tutte Le gallerie no, Galleria Più invece no, comunque quasi tutte le gallerie in realtà inaugurano domani, per cui domani è il giro delle gallerie che dovrete fare stasera, dicevo Galleria Più di fianco al Mambo, Deborah Delmar, Stressed, Blessed and Coffee Obsessed. Locale 2 domani inaugura con Giovanni Cronenberg, Mono 3 a cura di Fabio Farnega di Retosi, la 8 per Barclay Tramonto. La P420 ha una collettiva chiamata Adrian, George, Peter, Sofia and Tamina, con Adrian Bushman, George Rui, Peter Shear, Sofia Silva e Tamina Amadiar, e anche quella inaugura domani alle 18.30. Così come lo squadro con Nicola Toffolini, non è facile capire dove finiscono le cattive condizioni atmosferiche e dove cominci la calamità naturale. Questo forse bisognerebbe dirlo a Trump. Stasera invece sta inaugurando in questo momento la Galleria Enrico Astuni con Gabriele Basilico, Alberto Garutti, Ugo La Pietra, Corrado Levi, Alessandro Mendini, una mostra collettiva a cura di Giacinto Di Pietrantonio. L'Ariete inaugura domani di nuovo, in realtà è già aperta anche da oggi, con Jing Dong, White Night, Landscapes of Chaos. Dopodiché, vabbè, in realtà sono tantissime, la Defoscheraria, Vaijiko Chanchiani, Glass Ghost, e anche loro hanno inaugurato in realtà, se non sbaglio, la settimana scorsa, ma domani è un'altra mostra da andare a vedere, così come Cardrd con David Casini, che di nuovo inaugura domani. Adiacenze, l'abbiamo detto, hanno inaugurato la settimana scorsa, ma hanno Guido Segni, questa inaugura stasera, in questo momento sta inaugurando Guido Segni fino alla fine. Dopodiché abbiamo un'altra cosa assolutamente da sottolineare, abbiamo il fatto che quest'anno Bologna Musei ha indetto l'ingresso gratuito a tutte le mostre nei 3 giorni della fiera, per cui vi invito, chi di voi ha il portafoglio leggermente vuoto come tanti di noi, vi invito ad andare a vedere naturalmente Mika Rottenberg, di cui abbiamo parlato leggermente prima. Villa delle Rose c'è Goran Tribuliak, che anche di quelli che abbiamo menzionato prima, e poi un altro sacco di altre cose. Invece della Casa dei Risvegli ci parla direttamente Emilio Fantin. Emilio Fantin, non sono riuscito a venire alla conferenza stampa di quello che stai facendo tu. Che cosa stai facendo tu? Ma io sto facendo una cosa, la Casa dei Risvegli. Esatto, che è un posto serio. È un posto unico, direi, in Italia, non so nel mondo, però è uno dei padiglioni dell'ospedale Bellaria ed è quel padiglione in cui ci sono dei degenti particolari, cioè le persone in coma. Ogni tanto se ne sveglia qualcuno, quindi è il padiglione dei risvegli. Certo. E dunque che cosa fai dentro questo padiglione dei risvegli per un pubblico che magari... cioè sa che cos'è il coma ma non sa che tipo di lavoro fa Emilio Fantin di solito? Ma ho fatto un'installazione che avevo usato già in realtà più di 10 anni fa alla Fondazione Pistoletto, si chiama Integratore, è una installazione molto grande dove le persone possono entrare e sedersi, sono 6 postazioni in questo caso. Al tempo di Pistoletto le persone raccontavano i sogni, invece in questo caso 2 delle 6 persone sono 2 narratori e sono 2 persone che sono degenti o ex pazienti della Casa dei Risvegli che raccontano quello che vogliono in realtà. Interessante, magari la loro esperienza di risvegliati, esatto, no? Esatto, che, la loro esperienza di risvegliati, c'è chi... e invece racconta una poesia, c'è chi cerca di raccontare qualcosa perché a volte le parole non escono. Molto del tuo corpo di lavoro ha a che fare con i sogni. Li invidi un po' questi che sono in coma? No, no, non li vedo, ma noi ne sappiamo poco, nel senso che sì, vabbè, il sogno è una cosa particolare che noi tutti conosciamo, noi tutti proviamo ed è uno stato della coscienza. questo è un altro stato della coscienza, certo, che noi non conosciamo, la maggior parte delle persone non conoscono, ma che si può forse individuare o si può manifestarsi in qualche modo anche a chi non l'ha provato attraverso un rapporto con queste persone, ma soprattutto attraverso un rapporto con questo luogo, con la casa dei risvegli, perché lì c'è un'energia veramente particolare. Sono bravissimi tutto lo staff medico e anche lo staff degli educatori, e hanno saputo creare un punto di vita, non un punto di morte, come magari alle volte succede, certo. Sì, ma qualcuno anche potrebbe pensare a un luogo cupo, scuro, no, certo. Lì accadono delle cose, hanno dei laboratori teatrali e stimolano continuamente le persone che rispondono all'arte, e è essenziale secondo me in questo caso anche per attivare magari qualche... Io naturalmente ti auguro di risvegliarli tutti con il tuo lavoro. Lo spero. Grazie. Mi basta intanto lavorare con loro. Did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day, the hour hand has spun, but before the I just have to hear those sweet words spoken like a melody. All your love is a lost balloon rising up through the air. Did you have a hard time sleeping? 'Cause the heavy moon was keeping me awake, and all I know is I'm just glad to see you again. Sperando che siate in giro per la città nel momento in cui creativamente è sicuramente più viva durante tutto l'anno, e ci auguriamo che veniate a trovarci a Fruit, oppure che siate andati o che domani andiate in giro per inaugurazioni e per gallerie. E vi diamo appuntamento come al solito al venerdì prossimo per la prossima puntata di Coxo Spaziale, che, in cui forse, cioè, io non ci sono, Fedra forse non c'è neanche lei, non c'è nessuno, viene fatta da sola. No, non credo che verrà fatta da sola. Male che va, la registriamo come al solito, bene che va, vi trovate Fedra dal vivo, mi raccomando, fate a modino. Un bacio a tutti e a prestissimo. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. In the country, watching afternoon repeats and the food he eats. In the country, he takes a manner of pills and piles up analyst bills. In the country, oh, it's like an animal farm. That's a rural charm. In the country, he's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. It's a helping hand that makes you feel rather blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. It should come to no harm on the animal farm. In the country, in the country, in the country. Questo era Coxo Spaziale 252, io ero Stefano W. Pasquini e sei sempre su Radio Città Fujiko. Non cambiare canale, mi raccomando. Come to